Allora, c'è una foto a colori in prima pagina su un quotidiano nazionale qualsiasi, nel caso specifico è Repubblica del 24 scorso, ma potrebbe essere davvero qualsiasi altro. La didascalia ci informa che vi sono raffigurati il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi. Infatti sono lì tutti e due, vestiti di grigio, con gli angoli della bocca debitamente piegati all'ingiù e l'aria solenne che s'addice alla posizione di entrambi. L'immagine illustra un articolo sui loro recenti dissapori in tema di data delle elezioni e scioglimento delle Camere, ma si tratta con ogni evidenza di una foto di repertorio scattata in qualche diversa occasione ufficiale. A giudicare dalla posizione impettita e dagli occhi levati al cielo, si direbbe che i due stiano ascoltando l'inno nazionale o qualcosa del genere. Niente di particolarmente interessante, dunque, salvo che per un dettaglio evidentissimo che pure, a prima vista, rischia di passare del tutto inosservato. E quella didascalia è clamorosamente sbagliata, perché nella foto di fatto Ciampi e Berlusconi soli non sono. Non diciamo sbagliata, è insufficiente. In secondo piano, ma ben visibile, c'è una terza persona, anche lui doverosamente impettito, con gli occhi levati al cielo e gli angoli della bocca piegati all'ingiù, troneggia tra di loro un corazziere della guardia presidenziale. Beh, direte voi, niente di strano. La foto sarà stata scattata al Quirinale, lo sanno tutti, di corazzieri non si sente la mancanza, al punto da poterli considerare, senza alcuna intenzione di offendere il corpo e i militari che lo compongono, meri elementi del paesaggio. Se Ciampi e Berlusconi fossero stati fotografati, che so, sotto un albero o accanto a una scrivania, nessun redattore avrebbe specificato particolare nella didascalia, e altrettanto è successo quando sono stati ritratti in prossimità di un corazziere. Il che, naturalmente, è giusto. Ma ciò non toglie che, essendo i corazzieri comunque degli uomini, e non essendo gli uomini né alberi né scrivanie, a me quella dicitura abbia fatto un poco impressione, insomma, ha indotto in me lo stesso vago senso di straniamento quando, per fare un altro esempio banale, in televisione mi imbatto nell'intervista a qualche pezzo grosso colto per strada in un luogo pubblico, e avete notato anche voi che in quei casi l'intervistato è come circondato da certi omaccioni dall'aria intenta, che si guardano intorno sospettosi, senza minimamente curarsi di quello che il soggetto fa e senza che né il soggetto né il giornalista intervistante minimamente si curino di quello che fanno loro. Sono ovviamente le guardie del corpo, personaggi importantissimi nella vita quotidiana di qualsiasi politico di una certa levatura, ma condannati anche loro a confondersi nello sfondo. E visto che farsi scambiare per le palme in vaso o i riflettori del palcoscenico proprio non gli è possibile, a far finta di esservi confusi. In questi casi c'è come una tacita convenzione tra mittenti e destinatari della comunicazione, per cui gli uni e gli altri li considerano a tutti gli effetti assolutamente inesistenti. Il problema dei criteri con cui definire in un'immagine qualsiasi qual è il soggetto e qual è lo sfondo, notoriamente è cruciale in ogni teoria della percezione, ma non è su questo che voglio intrattenervi oggi. Potrebbe essere interessante, altrettanto interessante, chiederci quali possano essere gli effetti di questa convenzionale invisibilità sui personaggi che ne fruiscono. Mi spiego subito. Sulla solitudine dell'uomo di potere sono state scritte migliaia di pagine. Gli antichi parlavano di solitudine del tiranno, sottolineandone la rischiosità personale, come nel celebre episodio di Damocle e Dionisio di Siracusa, di cui riferisce Cicerone in un passo delle Tusculane. Il termine oggi ha poco corso e comunque non può applicarsi per svariate ragioni né a Ciampi né a Berlusconi né a alcun altro dei protagonisti della nostra vita politica, che infatti soli non sono mai, ma vivono circondati perennemente da collaboratori di ogni tipo, i satellites, come li avrebbero chiamati i classici, corazzieri e guardie del corpo, appunto, ma anche segretari, portaborsi, ghostwriters, consulenti, addetti all'immagine, leccapiedi vari e chissà quanti altri. A tutti costoro si chiede non soltanto di non farsi vedere per cortesia, ma di scomparire, anche quando sono in piena vista. E se la relativa convenzione pubblico disciplinato si adegua, considerando solo i propri politici anche quando sono manifestamente in compagnia, e non si vede perché non ci si debbano adeguare se stessi. Io vi confesso, spesso ho avuto il sospetto che si considerano gli unici attori di un gioco in cui sono soltanto degli ingranaggi, sia pure di una certa rilevanza. E siccome da cosa nasce cosa, non è detto che quella progressiva incapacità di vedere gli altri, quella tendenza, se mi concedete il termine, all'invisibilizzazione del propinquo, debba limitarsi al loro immediato entourage. È un'ipotesi, eh? Ma facciamo un esempio recente, anche un altro esempio qualsiasi. Torniamo a Berlusconi, a Ciampi e al loro recente scambio di cortesie preelettorali. Riassunto. Il primo dichiara, in spregio agli impegni presi, di voler continuare a far danno in Parlamento e sui media per altre 2 settimane. Il secondo, per via delle traverse, ma a tutti ben note, gli manda a dire di non pensarci nemmeno. Ah sì, ribatte il Berlusca, e forte della sua preparazione di mercante di bazar, ricorderete, credo, quella celebre lezione impartita in sede internazionale su come condurre le trattative, no? Ecco qui Cammello adesso fare vedere soldi, e forte di questa sua preparazione rilancia, proponendo addirittura di spostare le elezioni a maggio. Gulp! Grida il Ciampi impressionatissimo, e si affretta ad accettare la proposta iniziale, quella che prima gli era così poco piaciuta. Sullo sfondo di questo interessante dibattito, i leader del centro-sinistra fanno da coro greco, levando altissimi rai alla proposta iniziale, salvo decidere poi, non si capisce bene perché, che la sua accettazione rappresenta un onorevole compromesso. Non sembra anche a voi che difficilmente i protagonisti di questa farsa non molto decorosa avrebbero avuto il coraggio di portarla a termine se avessero pensato di agire sotto gli occhi della nazione? Secondo me chi fa queste cose la nazione non la vede nemmeno. Altro che corazziere e guardia del corpo, guardate, per larga parte del ceto dirigente i veri uomini invisibili siamo noi.